velocità. Nella pancia c'è qualcosa di strano, non è fame ma chissà che sarà. Cose che ti fanno rabbrividire o ti mettono una fifa blu. Un saluto che ti fa balbettare, risatine che non smettono più. Se succede che non riesci a stare fermo aspettando qualche novità, se la bocca più non smette di parlare quando scoppi per la felicità, prendi un'emozione, chiamala per nome, trova il suo colore e che suono fa. Prendila per mano, seguila pian piano, senti come nasce, guarda dove va. Prendi un'emozione e non mandarla via, se ci vuoi giocare fai il cambio con la mia. Puoi spiegarla a chi non la sa e tutta la tua vita vedrai un'emozione. Le emozioni sono l'arcobaleno che colora il cielo dentro di noi. Sono nuvole, sono il sereno, sono il sale e il pepe di ciò che fai. C'è la rabbia che non riesci a capire e non sai se poi ti passerà, ma davvero basta solo parlare e la soluzione si troverà.